Buongiorno. Sono Gigi D'Agostino. Vi racconto il mio cammino. ho bisogno di riflettere. Bello questo! Il cammino di Gigi D'Agostino. Vai, vai, vai, vai, che so. Sta suonando Gigi D'Agostino? Yeah! Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Bogacci via questo. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Mica non c'ho lei. Sì, ho capito. Andava bene. La frequenza è codesta e la musica pesta. Stai sicuro.

si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Pavimento. Gigi D'Agostino è lento, violento. Hai visto, dall'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si fa lento, violento, quello vero. Quello vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero, vero. Il lento violento non è un genere musicale, ma un modo nuovo di salire le scale. Forse così può sembrare insensato. In effetti il concetto non è ponderato. Officina emotiva. Venerdì 16 marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Karma. Torino. Crede che la natura ce ne mostra chiaramente il suo dovere di cura. nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente non è per un indovino, né tanto meno un mago, ma usa il cervellino. Lui non crede negli oroscopi, tu adesso ascolta qua. Lui ama solamente la concreta verità. E come Aristotile crede che la natura ce ne mostra chiaramente il suo volto per di pura. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. E nella successione dei fenomeni. Spazio. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Emotiva, sabato 17 marzo 2007, ore 22:30. Officina emotiva con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale presso la discoteca Piscina dei Castelli, Sestri Levante, Genova.

strive for my whole life to grow my basil. To grow my basil. Falling in like a go-go, need your love to feed my baby soul. I'm dreaming in like a go-go, what is love to teach my baby soul? And I try for my whole life to grow my baby soul. So falling in like a go-go, need your love to feed my baby soul. I'm dreaming in like a go-go, what is love to teach my baby soul? M2O, musica allo stato puro. Rimango sulla strada che non so dove, però legge mi porta su, non torno più. A volte gira perché lei chiama me, perché anche lei non sa dove. Rimango sulla strada che non so dove, però lei c'è, mi porta su. Non torno più. più.